Che cos'è il femminismo? Perché le donne dovrebbero lottare per affermare i propri diritti? Perché, secondo le femministe, nella nostra società opulente, tecnologicamente avanzata, le donne dovrebbero ancora aver bisogno del femminismo? Con queste domande si apre il divertente libro a fumetti di Sophie Grillet, Non sono femminista, ma tutto quello che bisogna sapere sulle battaglie delle donne, pubblicato nel 1997 da Mondadori con la traduzione di Carola Proto. Il titolo originale del libro in inglese è Feminism for Teenagers e ripercorre per immagini fumettistiche le battaglie del femminismo, spiegando cosa è stato ed è il femminismo e perché è ancora necessario e sfatando in modo ironico alcuni luoghi comuni relativi alla femminilità, alla mascolinità e ai rapporti donna-uomo. L'intento di Grillet è di spiegare in modo semplice e immediato il femminismo alle adolescenti e di tentare di trasmettere in questo modo i temi cari al femminismo alle giovani generazioni di donne che pure molto devono alle battaglie, alle conquiste delle donne che le hanno precedute. That is not what I do. I ain't no damsel in distress, and I don't need to be rescued. So put me down, punk. Wouldn't you prefer a maiden fair? Isn't there a kitten stuck up a tree somewhere? Pretty girl. non solo femminista, ma quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase, seguita in genere da affermazioni che il femminismo ha fatto proprie, come ad esempio basta, non accettiamo più di essere divise in sante e puttane. Ma chissà perché alcune donne se ne vergognano. Il femminismo è associato evidentemente ad un movimento radicale, forte, al desiderio di cambiare radicalmente la cultura e la società. Ed in effetti è proprio così. Ma in certi contesti questo fa paura. Cambiare la realtà fa paura. Criticare la realtà fa paura. Portare avanti in generale un discorso critico fa paura. Chi sono le femministe? Secondo Grillier, dicesi femminista chi crede nei diritti delle donne. In realtà oggi poche donne si dicono femministe. E anche se molte sono d'accordo con i temi e gli obiettivi delle femministe, molte preferiscono prenderne le distanze. Ma se non sei femminista, allora non sarai mica d'accordo con gli antifemministi, contro cioè quelli che negano i diritti alle donne. Secondo Grillier, è femminista ogni donna che abbia lottato per difendere i diritti del proprio sesso. Rebecca West dice: la gente mi definisce femminista quando esprimo sentimenti che mi rendono diversa da uno zerbino. L'inferiorità delle donne è basata su luoghi comuni da sfatare e che strutturano la nostra cultura e il nostro pensarsi come donne e uomini. La prima teoria è che gli uomini sono la classe combattente per eccellenza e che le donne siano sempre state povere fanciulle da proteggere e bottino di guerra. In realtà, dice l'autrice, le donne non sono mai state estranee alla guerra e hanno sempre difeso con coraggio la propria gente. Pensiamo a Giuditta, ad esempio, che, stando ai Vangeli apocrifi della Bibbia, uccise Oloferne, comandante dell'esercito babilonese, consentendo al suo popolo di ottenere la libertà dall'assedio. Oppure Boadicea, regina degli Iceni britannici, che nel 60 d.C. guidò la rivolta contro i Romani, che avevano invaso la sua terra violentando le figlie. E ancora Sara Ioniae, capotribù del Mali, esperta nell'arte della guerra, che nel XIX secolo ottenne grandi successi nella lotta contro i colonialisti francesi. Ci fu poi Cristina Trivulzo Belgioioso, patriota risorgimentale italiana, scrittrice, giornalista, editrice. Nella Comune di Parigi poi numerosissime furono le donne, come anche nella guerra civile spagnola contro Franco, o come le partigiane in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. They poured across the border. We were cautioned to surrender. This I could not do. Into the hills I vanished. No one ever asked me. soon will come. Then we'll come from the shadows. Anemi, anemi, svirizo. Sto stafu, anemi, svirizo. Erriete in letteria. Un'altra teoria è quella religiosa. I libri sacri dei culti religiosi più diffusi, dal cristianesimo all'ebraismo, dall'islam all'induismo, teorizzano l'inferiorità delle donne e delle altre categorie oppresse, come i bambini, i disabili, gli stranieri. La sorella di Adamo ed Eva, con Eva come unica responsabile della caduta dal paradiso, è a tutti tristemente nota. Il punto è che non è stato sempre così. Prima che le deità maschili si diffondessero rapidamente nei culti religiosi, esistevano le antiche società matriarcali, in cui le donne vivevano assieme, si occupavano della casa comune, donavano il loro nome ai figli e interpretavano il volere della dea. E poi cos'è successo? È successo che gli uomini, grazie alla produzione di armi e utensili, non dovevano più procacciarsi il cibo e alcuni di loro sono potuti diventare religiosi o capotribù. Hanno cominciato ad acquistare un certo potere, dunque, e poi hanno scoperto la proprietà. Questo ha fatto sì che, per assicurarsi che i loro beni non venissero suddivisi tra i componenti della comunità, hanno stabilito che ciascun uomo avesse dovuto possedere una moglie che gli desse una prole a cui sarebbe stata trasmessa l'eredità lungo la discendenza maschile. In effetti, questo fenomeno può essere riscontrate anche presso alcune comunità tuttora matriarcali, come quella dei Moso della Cina, una minoranza etnica di cui non esiste il matrimonio, in cui le donne sono i capofamiglia e gestiscono la casa e la proprietà. La progressiva assimilazione dei Moso alla società patriarcale cinese rischia di far scomparire del tutto lo stile di vita di questa comunità fondato sui diritti delle donne. Off of the strip, in the outskirts and in the fringes, in the corner, out of the grip. If you want me, you can find me left of center, off of the strip, in the outskirts and in the fringes, in the corner, out of the grip. When they ask me, what are you looking at, I always answer, nothing much, not much. I think they know. Nel 1700 Mary Wollstonecraft scrisse nel suo libro Rivendicazione dei diritti della donna: quante donne hanno sprecato la loro vita votandosi a un destino di infelicità, quando avrebbero potuto fare il medico, gestire una fattoria o un negozio e camminare a testa alta sostenute dalla propria intelligenza. Nonostante i silenzi della storia, molte sono state le donne che hanno sostenuto le proprie idee e i diritti delle donne in modo attivo. Sarah Mapp Douglas e Lucrezia Mott, due insegnanti, una nera e l'altra bianca, fondarono nel 1833 la società femminile antischiavismo e coraggiosamente portarono avanti la loro battaglia, nonostante i continui attacchi dei razzisti. Elizabeth Cady Stanton organizzò il primo convegno per i diritti delle donne a Seneca Falls. Insieme a Susan Anthony si batté perché la violenza contro le donne fosse considerata causa di divorzio, lottò per il diritto al voto e per migliorare le condizioni lavorative delle donne. Mary Wollstonecraft, una delle protagoniste di She Game, il videogioco sulla storia delle donne, ideato e prodotto dalla nostra associazione culturale Connettive, fu filosofa e autrice di saggi, romanzi, ma anche libri di viaggio e di critica letteraria. Fin da piccola si ribellò al padre violento e prese coscienza delle ingiustizie subite dalle donne. Decise dunque di dedicare la sua vita alla lotta contro le disuguaglianze e riversare nei suoi testi le idee sulla condizione femminile e le sue proposte per la liberazione dalle oppressioni. Denunciò le ingiustizie subite dalle donne, relegate ai ruoli di mogli, madri e prostitute, oggetti di scambio mediante il matrimonio, ed esortò alla liberazione dal bisogno e dalla povertà, che costringe le donne nell'angusto spazio della sopravvivenza. Dedicò molta attenzione ai temi dell'istruzione e dell'indipendenza economica, convinta che fossero strumenti necessari per raggiungere la parità, sottolineando lo stretto legame tra dipendenza economica e dipendenza morale. Sostenendo che dalla dipendenza fisica nasce quella mentale, auspicava che le donne rinvigorissero il loro corpo, rendendosi meno cagionevoli, e l'intelletto, tramite una formazione adeguata, invitava le donne a modificare se stesse attraverso un cambiamento mentale, un modo diverso di pensare e sentirsi. Nel 1787 pubblica infatti Riflessioni sull'educazione delle figlie. Iniziò nello stesso anno a collaborare con la rivista Analytical Review, sulla quale recensirà anche il testo della storica Catherine McLay, Letters on Education, la quale condivideva con Mary l'attenzione al tema dell'educazione. Nel 1792 pubblica Rivendicazione dei diritti della donna, in cui scrive sulla condizione della donna e sul riconoscimento dei diritti civili, sociali e politici. Critica il falso sistema di educazione che tenta di far rivivere le donne nel culto del proprio corpo, alla ricerca dell'ideale della femminilità, privandole di modelli di comportamento ispirati all'uso della ragione. Mary, dunque, fa appello alla razionalità femminile, alla capacità di osservazione e di analisi della realtà, alla capacità di agire per la propria indipendenza, delineando il percorso per una rivoluzione del costume femminile. Nel 1796 scrive L'oppressione della donna, romanzo di denuncia sociale, prevalentemente autobiografico in due volumi, rimasto incompiuto. È anche un documento della condizione femminile del Settecento. Rimasto incompiuto è anche il libro Maria o I torti della donna, che iniziò a scrivere prima di morire, in cui esprime la necessità di un riconoscimento pubblico dei diritti delle donne. Muore nel 1797. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quelle corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. E con la spunta al bulletto c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Femminista, tango della ribellion. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più? Ah, tango della femminista, tango della ribellion. Negli anni 60, grazie anche alle lotte di emancipazione dei neri e dei popoli colonizzati, giunge il momento di porre i diritti delle donne al centro della questione politica e sociale. Le donne, come scrive Grillet, dicono finalmente basta alla prepotenza maschile, basta con i modelli impositivi di bellezza e avvenenza, basta di fingere di essere più stupide e indifese degli uomini, di cambiare il cognome, di essere signore. Le donne sono stufe di non poter scegliere. Le donne sono stufe di sgobbare in casa senza essere pagate e criticano le promesse del libero mercato che le vuole casalinghe efficienti e madri premurose. Ma, come afferma saggiamente Grillet nel suo libro, non basta un elettrodomestico per garantire alle donne uguaglianza e piena libertà psicologica e sociale. I problemi sono tanti e bisogna affrontarli una volta per tutte, partendo se necessario dall'origine. Le femministe criticano, ad esempio, l'educazione sessuale diseguale tra femmine e maschi, alla base delle idee e dei pregiudizi distorti che ognuno di noi sviluppa poi in età adulta. I pregiudizi in ambito educativo sono, ahimè, ancora tanti e molto diffusi. Un'antica filastrosca inglese recita così: «Di cosa sono fatte le belle bambine? Di zucchero, spezie e cose carine». Di cosa sono fatti i maschietti? Di rane, lumache, orribili insetti. Cosa volete che venga fuori da questa differenza educativa? Le bambine cresceranno con l'idea che la dolcezza e la dipendenza siano qualità prettamente femminile, mentre i ragazzi penseranno che da grandi dovranno essere duri e senza cuore. E che dire poi delle differenze perpetrate dall'istruzione? Oggi le ragazze studiano e si impegnano più dei loro coetanei a scuola, ma non riescono a ottenere lavori ben retribuiti per la loro professionalità, senza contare che sono ancora poche le donne che accedono alla carriera scientifica come ingegneria, fisica o astronomia. Diciamo che permane ancora una forte barriera psicologica. Un capitolo molto attuale è quello del lavoro. La crisi economica sta oggi colpendo soprattutto le donne. Molte infatti sono coloro che decidono di rinunciare al lavoro perché non riescono più a rientrare nel mercato del lavoro una volta licenziate e perché spesso non gli conviene, dal momento che sono pagate meno degli uomini e sono le prime ad essere sacrificate dai datori di lavoro. Questo dato può forse essere spiegato col fatto che ancora oggi a livello diffuso il lavoro non è un diritto acquisito pienamente dalle donne, che se ne dica. Le donne sono pagate di meno, dicevamo, ed inoltre fanno più fatica ad accedere ai ruoli più prestigiosi, imbattendosi nel cosiddetto soffitto di cristallo. Oggi le cose stanno cambiando, certo, ma anche in politica, eccetto alcuni casi specifici, alle donne vengono affidati ministeri tradizionalmente femminili, come la sanità o l'istruzione. Poche donne oggi siedono al Ministero della Difesa o al Tesoro, ma a differenza di quanto si può pensare, anche nei paesi non occidentali ci sono state donne primo ministro. È il caso della Turchia, del Pakistan, del Bangladesh, del Nicaragua, delle Filippine o dell'Irlanda. Tuttavia, nonostante la loro professionalità, perché, chiede l'autrice, le donne sentono il dovere di giustificarsi se lavorano? Semplice. Fin da piccole ci hanno insegnato che non siamo parte legittima della forza lavorativa e che dobbiamo restare a casa per cucinare deliziosi manicaretti e aprire la porta all'elettricista o all'idraulico. Così i datori di lavoro sfruttano il nostro senso di colpa per discriminarci. La realtà è che le donne hanno sempre lavorato e non solo in casa. Hanno sempre lavorato la terra o allevato bestiame. Molte erano raffinate artigiane, ma il loro valore economico produttivo non è riconosciuto, perfino visto. Alla fine dell'Ottocento il 50% degli iscritti ai sindacati era donna, ma questi non sembravano in grado di comprendere le esigenze e le richieste delle lavoratrici, tanto che Emma Patterson diede vita alla Lega per la protezione e l'aiuto delle donne, divenuta successivamente Lega del Sindacato delle Donne, che propose una legge per l'uguaglianza salariale tra donne e uomini, legge che non fu sostenuta abbastanza dal sindacato misto. Flora Tristan mise a punto un programma per l'emancipazione delle donne e dei salariati. Flora Tristan riteneva fondamentali: 1. Il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo. 2. Una formazione etica, intellettuale e professionale per le lavoratrici. 3. L'uguaglianza giuridica tra donne e uomini. Si batté molto anche per la previdenza sociale, ritenuta fondamentale per la libertà delle donne. Suo è lo slogan, ripreso poi da Marx: lavoratori di tutto il mondo, unitevi. Un'altra donna impegnata nella difesa dei diritti delle lavoratrici fu Annie Besant, che divenne famosa nel 1888 per la propaganda durante lo sciopero delle fiammiferaie del sobborgo di Londra Bow. Queste donne furono seguite dalle tante lavoratrici che nelle fabbriche iniziarono a manifestare il loro dissenso nei confronti di un sistema che le considerava meno dei lavoratori uomini e nei confronti dei colleghi che non lottavano al loro fianco. Iniziarono a nascere sezioni femminili all'interno dei sindacati, nota quella creata da Eleanor Marx, figlia di Karl Marx, all'interno del sindacato dei gasisti. Nel 1896, dice l'autrice, in Gran Bretagna le donne iscritte ai sindacati erano oltre 118.000. 100 anni dopo arrivò a quasi 3 milioni e mezzo. Nel libro, no, solo dopo diversi decenni i sindacati fecero loro la lotta per l'uguaglianza salariale e iniziarono a battersi per essa. Nel 1944 fu istituita una commissione ad hoc, ciononostante nel 50 solo gli insegnanti e gli impiegati statali la ottennero. A livello europeo il principio della parità salariale venne sancito con il Trattato di Roma, istituito della Comunità Economica Europea. Ma è una conquista abbastanza recente nei diversi paesi europei, conquista che però viene nei fatti quotidianamente disattesa. È semplice, diventi uguale agli uomini se ti permettono di fare lo stesso lavoro, ma siccome non sei affatto uguale, ti obbligano a svolgere lavori femminili. Cioè, se non siamo come gli uomini, non possiamo essere uguali. Non so se riuscite a seguirmi. Il punto che è che oggi, mentre diminuiscono i lavori tradizionalmente maschili, aumentano quelli tradizionalmente femminili, come l'educazione, la cura della casa e dei figli, la presa in carico delle categorie più deboli, come gli anziani, che gli uomini però si rifiutano ancora di fare e che lo Stato, dati gli alti costi che implica lo Stato sociale, preferiscono ancora demandare alle donne. Ma la disoccupazione maschile ormai è una realtà e gli uomini non possono più nascondersi dietro la tradizione, anche perché questo danneggia soprattutto loro, poiché la società e le donne, come afferma Grillet, non traggono alcun vantaggio dall'avere accanto tantissimi ragazzi ignoranti e disoccupati che si danno alla droga e alla malavita. Nel libro troviamo un'intera sezione sul corpo e la sessualità femminile. Vediamo come nei secoli il potere patriarcale sulle donne sia sempre passato attraverso il controllo del corpo e della sessualità. Partendo dalle molteplici religioni e dalle leggi che hanno tentato con ogni mezzo di rinchiudere le donne alla sfera della casa, privandole della libertà di decidere se avere figli, quando e come, se avere rapporti sessuali, e inculcando sensi di colpa che ancora oggi ci portiamo dietro, nonostante la società e il ruolo della donna sia completamente cambiato. Assistiamo ora al rovesciamento della medaglia. Se prima le donne avevano il dovere di coprirsi, di non scegliere, non essere consapevoli del proprio corpo, oggi tutte queste cose sono alla portata di tutte, tranne che per la grande novità di doverci svestire. Continuiamo a non avere potere decisionale, ma a comportarci come la società ci impone di essere. In Afghanistan portiamo il velo e in Occidente ci spogliamo per affermarci come donne. Ed in tutto questo noi che cosa abbiamo deciso e ragionato? L'idea del femminismo al riguardo dice che è fondamentale per una donna poter scegliere se, quando e con chi avere un bambino. Le donne devono poter disporre liberamente del loro corpo, della loro vita sessuale, del lavoro e dello studio, a prescindere da quanto i politici, in prevalenza maschi, e i religiosi, in prevalenza maschi, ritengono più opportuno. Lo slogan delle femministe degli anni 70, che recitava «Questo corpo è mio e lo gestisco io», non era altro che un modo per ribadire l'autodeterminazione delle donne sul proprio corpo, dire cioè che il mio seno appartiene a me e non a chiunque, che la mia vita sottile non è a disposizione delle industrie o dei prodotti dietetici e che il mio utero non è proprietà della Chiesa o dello Stato. Se penso che in Italia l'aborto è stato legalizzato soltanto nel 1978, che fino al 1996 lo stupro di una donna era considerato un reato contro la morale e non contro la persona, che il delitto d'onore è stato abolito solamente nel 1981, mi chiedo come possiamo essere così convinte che il retaggio culturale sia svanito e che le donne siano libere. La violenza sessuale all'interno del matrimonio è stata dichiarata illegale in alcuni paesi europei soltanto a partire dagli anni 90, mentre la reticenza delle istituzioni di creare leggi che tutelino le donne all'interno delle mura domestiche e le proteggano dalla violenza è ancora molto forte. In Italia, come in altri paesi, sono nati dei luoghi che aiutano le donne ad uscire da situazioni insostenibili. In paesi come l'India le vedove possono essere bruciate sul rogo del consorte defunto e la famiglia del marito può addirittura uccidere la sposa se la dote non è adeguata. Colpevoli di questo stato di cose, dice Grillet, sono soprattutto gli uomini e l'idea diffusa che il corpo di una donna sia facile preda per i propri bisogni. Anche alcune madri e alcune suocere sono responsabili del crimine di bruciare le spose, di costringere le figlie alla prostituzione o di proteggere gli atteggiamenti criminali e violenti dei figli maschi nel caso in cui questi esercitino violenza domestica sulle mogli. E quest'ultima cosa accade praticamente in tutti i paesi del mondo. La tendenza di alcune donne a giustificare o a sminuire la violenza perpetrata contro le proprie simili è frutto ancora del pregiudizio e della reticenza di molte di mettere in discussione le fondamenta culturali e sociali della società in cui viviamo. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna.